Tutti convocati Magazine di Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantini, dottore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Oggi non mi va di perdere tempo e ho voglia di passare subito alla mia rubrica preferita di questo appuntamento del sabato con tutti i convocati. La mia parte preferita, ormai lo sapete, è un segreto di Pulcinella, sono i vostri interventi settimanali. Il podio dei vostri interventi settimanali, il podio delle vostre voci che raccogliamo durante la settimana. E allora dai, partiamo dal numero 3 dei nostri ascoltatori intervenuti in settimana in tutti i convocati. Antonio, Bologna, che scrivi? Andrea da Pisa. Buongiorno a lei. Senta, io sono un tifoso del Napoli. Le posso fare una piccola critica, piccolissima proprio? No, anche grande. No, volevo sapere, lei come fa, a tempo fa ha detto alla radio, come fa lei a dire che il Napoli non vale i punti che ha? Come fa lei a dire che il Napoli, il Milan passava sopra al Napoli, proprio tranquillo, lei sicuro di sé? Cioè, lo sa lei che se noi avessimo avuto maggio dell'anno scorso, io non so se la Juventus avrebbe vinto lo scudetto? Juventus avrebbe vinto lo scudetto lo stesso, anche con il maggio dell'anno scorso. Io confermo il mio pensiero, mi prendo e incasso le critiche, in fondo sono un buon incassatore anche se non sono un pugile. Continuo a pensare che Mazzarri e il Napoli, che Mazzarri, neo allenatore dell'Inter, abbia spremuto tutto il meglio che poteva dalla rosa del Napoli nel corso non solo dell'ultima ma di tre stagioni in cui è stato davvero bravissimo. Allora andiamo con un altro ascoltatore che propone, tormentone della settimana, un nuovo allenatore per la Roma. Quale? Antonio, provincia di Venezia. Buondì, gente. Buongiorno. Pronto? Sì, mi sente? Sì. Niente, super tifoso della Roma da 35 anni. Un casino così non l'ha mai visto neanche lei, così come Roberto Renga. Ecco, io le dico che se dovesse arrivare Blanc come allenatore della Roma, in seduta stante do la disdetta. Dalle dimissioni. Dalle dimissioni. No, do la disdetta alla Pay TV. Incarto e metto in un bel scatolone bandiere, magliette, gagliardetti e quant'altro, e arrivederci al calcio. Preferisco chi vorrebbe? Lino Banfi. A Lino Banfi? Sì, mi ha capito, no? Sì. Dai, c'è poca serietà. Dario Milano, buongiorno. Sì, ciao, grazie per essere stato convocato. Un gran ricordo, perché quando giocavo a calcio, quando guardavo fuori i convocati, vedevo il mio nome e mi emozionavo. Un vecchio ricordo. Ma qua sei convocato tutti i giorni, anche domani. Lo so. Allora, niente, una considerazione su Allegri. A livello tattico, io se fossi stato in Allegri me ne sarei andato, perché sarà tutto l'anno col fiatone dietro il collo, perché il minimo errore sarà ancora messo in discussione. Quindi non so come lavorerà, perché non penso che lavorerà in modo molto tranquillo. O fa il miracolo, sì, no, o ma se no è un anno di, diciamo, sabbatico per aspettare veramente che non so, faccio un corso non più online, ma magari che possa allenare. Già, il corso online per allenare il Milan. Per allenare, sì, il Milan. Se no, mi metto anch'io a fare un corso online, poi magari mando il curriculum, magari assumono anche me, non so. Bene, adesso è il momento di, dopo il podio dei nostri ascoltatori, in settimana abbiamo avuto anche una lectio magistralis, come si dice in università, del professor Franco Arturi, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Ne ascoltiamo subito una parte relativa proprio al Milan. Mazzarri a Milano, ne abbiamo visti tanti passare di lì, eh? Perché potrebbe essere quello giusto, direttore? Beh, perché è un allenatore con la giusta maturità, che è un allenatore che ha fatto bene dovunque, che ha le idee chiare, che ha le giuste certezze, e quindi, voglio dire, ha tutti i presupposti per funzionare anche in un ambiente particolarmente difficile come quello dell'Inter, perché, come sappiamo, è sotto gli occhi di tutti. È un allenatore da ricostruzione oppure uno di quegli allenatori abituati a fare le nozze coi fichi secchi? Ma è di tutto un po'. Mazzarri ha fatto un lungo cursus honorum, facendo bene dovunque, salendo con la giusta gradualità, mi è piaciuto molto nella sua presentazione l'accenno al fatto che i cosiddetti cicli, o questo modo di dire un po' curioso, gli stanno stretti, giustamente, si lavora per ottenere dei risultati immediatamente, non per procrastinarli verso un luminoso e lontano avvenire. Senti direttore, Allegri confermato ma sub condicio, vorrei sapere la tua posizione su questo. Seduto su un barile di tritolo, Galliani questa poco fa alle 13.34 è uscita l'agenzia, ha detto totale sintonia con Berlusconi, anche se ci sta avere idee diverse, ma la società è una. Se c'è bisogno di dire queste cose vuol dire che la sintonia non c'è, secondo me. Può essere, d'altra parte va riconosciuto al presidente di voler avere una voce in capitolo. Sì. Non credo che Berlusconi, per quello che ne sappiamo naturalmente, abbia impostato le cose su capricci, ripicche, bizzarrie. Il Milan di quest'anno ha avuto alcuni meriti certi, sicuri, ma alcune defaillance tecniche. La finale di campionato sotto il profilo del gioco è stato troppo sofferto e secondo me il gioco della squadra non corrisponde non solo ai gusti di Berlusconi, ma a un giocare europeo, e non sto parlando di vincere la Champions, ma semplicemente nello sviluppo di un gioco propositivo, aggressivo, che questa squadra, a mio avviso, spesso non ha avuto, troppo spesso non ha avuto. Sì, probabilmente nemmeno ai denari che costa questa squadra, che la ricordiamo come monte ingaggi la più costosa della Serie A, perché è bene non dimenticarlo, e Berlusconi non se lo dimentica. Non so se tu leggi una certa lotta di potere, forse è troppo, tra Galliani e Berlusconi. Lo escluderei in modo tassativo e categorico. Non ci saranno mai motivi seri di dissenso nella diversità di opinioni, non stiamo parlando di fisica quantistica, ma stiamo parlando di casi dove è legittimo avere opinioni diverse naturalmente, ma il concetto non è tanto la rosa, quanto vale il mercato della stagione scorsa, dell'estate scorsa, lo smantellamento di una squadra di tipo europeo. Anche il Bologna spesso ha giocato con maggiore personalità del Milan e non ha certo una rosa all'altezza del Milan. Secondo me questo è il caso di chiedere ad Allegri. Io ritengo che sia in grado di farlo, e che però l'anno scorso si sia visto solo a tratti, e in particolare nel finale di stagione con quasi tutta la rosa a disposizione, eccetera, non si sia visto il gioco che si aspetta Berlusconi, ma direi che si aspettano i tifosi. Certo. Senti direttore, ieri abbiamo parlato a lungo della Roma, ha chiamato un ascoltatore che ha suggerito Lino Banfi come tecnico della Roma. È ovviamente una butade, però vista la situazione che c'è da quelle parti, la proposta dell'ascoltatore era forse legittima. Si fa per ridere, eh? Ma no, per essere corretto. Possiamo sorridere su tutto ed è giusto farlo. Certo, paradossale, Franco. Devo dire, la rosa della Roma l'anno scorso avrebbe dovuto portare a risultati diversi, sia nella prima versione zemaniana, sia nella seconda. Ma lì temo che la coesione societaria sia il primo obiettivo da centrare, e che al momento, o comunque nell'arco degli ultimi mesi, non sia stata. Certo. Tutti convocati Magazine. Ma questo che avete sentito di Franco Arturi non è tutto, perché col professore abbiamo parlato, vice direttore della Gazzetta, anima e core, come l'ho definito, della Gazzetta dello Sport. Abbiamo poi allargato il discorso ad altri argomenti della settimana, cioè una Sara Rani che ci ha fatto onestamente sognare, ci ha fatto immaginare una finale del Roland Garros, poi Serena Williams è troppo per lei, soprattutto dal punto di vista fisico. C'è stato poi Bolt che ha corso e perso peraltro il Golden Gala, ma ci rimane quell'inutile, a mio parere, totalmente inutile, totalmente stucchevole scambio di tweet con Mario Balotelli, e entrambi hanno perso l'occasione di stare zitti o fermi con le dita sui tasti del telefono. Abbiamo parlato anche di un campionato di basket, di playoff di basket, che sono così, secondo me, abbastanza anacronistici in queste serie lunghe, 7 partite, sono abbastanza massacranti, sono abbastanza crudeli, anzi sono molto crudeli, e alla fine non si può chiedere qualità, ma abbiamo un sacco di adrenalina. Ebbene, sentiamo queste le considerazioni di Franco Arduri. Franco, stiamo così discutendo, ma intanto la verità è che stiamo aspettando Sara Errani e Usain Bolt, per noi appassionati di sport, vero? Sì, devo dire che Sara è commovente quando gioca, e la cosa che mi ha impressionato, al di là delle caratteristiche del personaggio e dell'atleta, è il fatto che è diventata numero 5-6 del mondo e gioca dal numero 5-6 del mondo. Bravo, vero. Che non è la stessa cosa, perché vero. Nel tennis di oggi, soprattutto fondandosi su valori atletici, muscolari, è, diciamo così, relativamente facile arrivare in alto, ma poi mantenere quel livello è molto molto più difficile, e credo che Sara abbia fatto un salto di qualità nel match con la Radwanska, è emerso chiaramente da questo punto di vista, ed è stato entusiasmante constatarlo. Devo dire che poi alcune sue variazioni di gioco, la sensibilità di tocco, le volée, la smorzata, insomma, la rendono anche una giocatrice divertente, certo, oltre che infinita. Certo, e oggi l'aspettiamo lei pollicina nel paese dei giganti contro la più muscolare che c'è, cioè Serena Williams. A proposito di Bolt invece, ho letto questo battibecco inutile tra Bolt e Balotelli, come diceva l'avvocato Porelli, storico presidente della Virtus Bologna di basket. Secondo me, come dice sempre Dan Peterson, e tu lo sai Franco, Balotelli ha perso un'occasione per stare zitto. Forse anche Bolt, ma Balotelli di sicuro, secondo me. No, non sono dello stesso avviso, no. Mi farei un bel 1-1 delle 1-1, stanno zitti tutti e due, Sì, esatto. Quindi uno che dice non mi è tanto simpatico, l'altro che dice ma perché dici così che non mi conosci. Direttore, per chiudere, visto che siamo all'avvocato Porelli, storico e indimenticato presidente della Virtus Bologna, i playoff di basket più belli degli ultimi 10 anni. Dai. Appassionanti, ecco. Appassionanti. Belli no. Sembra una parola grossa, secondo me. Qualcuno adesso dice, avete visto, le 7 partite non erano quella mostruosità che sembrava. Io sono contrario per principio. E io sono contrario come te, e certo, un appassionato, se gli dai gara 13 sul 6-6 continuerà a gradirla e a palpitare, ma io vedo che nei terzi, soprattutto nei quarti si gioca un altro pallacanestro, ovvero non si gioca più a pallacanestro, palla alla guardia del momento che fa un bel 1-5, sfinimenti atletici, Hackett che è mostruoso per 3 settimane, e poi precipita, certo, nella stanchezza, così come da Tome, così come Aradori. È giusta l'osservazione di quali straccetti arriveranno. Bravo, direttore della nazionale, dopo questo stravolgimento. Tuttavia è giusto dire, come fai? Momenti agonistici, quel canestro decisivo a 62 centesimi di secondo, certamente sono cose straordinariamente apprezzabili e godibili, certo, per tutti noi che amiamo questo sport, ma questo direi sport, che magari al meglio di 5 partite. Grazie della lezione che mi hai dato, perché ho detto belli, invece sono semplicemente delle spremute di adrenalina e di quello che resta dentro i giocatori dopo questa stagione. Secondo me è un inutile massacro queste 7 partite, hai ragione tu. Credo di sì, anche se mi astengo dal dare lezioni a nessuno, esprimo semplicemente delle opinioni, ma in questo caso anche da appassionato. Grazie direttore. Grazie a tutti voi. Un abbraccio a Franco Arturi, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Dunque, altro argomento della settimana, come sapete, quello relativo alla Roma, ne abbiamo già accennato prima, una Roma che non trova l'allenatore, che ha perso Baldini, che vive in una situazione di completo caos societario. Pochi conoscono la situazione dell'ambiente giallorosso come Roberto Renga. Ecco perché gli americani vincono gli Apache, combattono gli indiani, gli americani non bevono vino rosso, bevono il latte, apposta non si embriacano. Avete visto mai un americano ubriaco voi? Io l'ho visto mai un americano ubriaco. Gli americani sono forti. Mazza, americani. Non puoi mica combattere contro gli americani. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. E se la società decide che devo essere io, sarò io. E punto. E se non vi piace, me ne frega niente. È così come la vedo. Non è il momento di scappare e di fuggire. Sarebbe troppo facile. L'allenatore della Roma domani si alza alle 9 per andare a allenare i ragazzi e per cercare di fare la partita contro il Napoli. E se vi piace bene, se non vi piace también. Io non mi pento di niente, non è questo il problema. Sono arrivati a Roma perché volevo arrivare a Roma, magari mi dispiace che non sono riuscito a fare quello che avevo in testa e quello che secondo me aveva la squadra come potenzialità. Andrea Zoli, perché potrebbero essere gli ultimi, diciamo. Sì, è vero, è vero. L'ho già detto anche sopra, ho salutato delle hostess, le ho baciate e ho detto, orca miseria, può darsi che non vi rivedo più. Io quest'uomo lo adoro. Loro di là del vetro che hanno scelto queste clip. Rome wasn't built in a day, come dice la canzone, però neanche in così tanto tempo, Roberto Renga, oggi serve una firma storica del giornalismo romano. Ciao Roberto. Sì, grazie, buon lavoro, buon pomeriggio. Senti, Roma, hai sentito anche tu, no, le dichiarazioni meravigliose, ma te le ricorderai, Luis Enrique, sì, Zeman, sì. Andrea Zoli, possiamo andare indietro se vuoi. Avanti non lo so, abbiamo lanciato un messaggio in bottiglia ieri su Twitter, Mister Roma, cerchiamo un allenatore alla Roma, non l'abbiamo mica ancora trovato. Ma loro adesso forse sì, queste potrebbero essere, non dico ore decisive, perché sai che nel calcio e con la Roma in particolare è sempre difficile parlare di ore. Ma in questo momento a Trigoria c'è il famoso Italo Zanzi, non so se per voi è famoso, ma qui a Roma, insomma, sì. Ci chiediamo che cosa faccia nella vita, però in realtà lui si è definito l'allenatore dei dirigenti. C'è Tenucci, c'è Baldini, sono tutti e tre riuniti ad aspettare una telefonata da parte dei manager di Blanc. Da 4 anni a Roma qualcuno forse comincia a rimpiangere anche Montali. Sì, Montali, ma anche Daniele Pradè, anche Montella, anche Bruno Conti, i rimpianti ormai sono parecchi. E il fatto è che è successo questo, che la Roma, questa nuova Roma, diciamo, questa nuova versione, è nata intorno a Baldini, e quindi Baldini e i baldiniani, che sono Fenucci, Sabatini, poi l'avvocato Baldissoni, che è consigliere ma è sempre presente ovunque, prende ogni decisione. Ma la cosa strana è che a quanto pare non si sono fidati dei baldiniani, proprio degli americani che sono stati chiamati da Baldini. E allora accanto a ognuno, a ogni dirigente italiano, c'è un dirigente americano, quindi c'è Pan, Pan che doveva andare via, ma in realtà è ancora l'amministratore delegato, mentre amministratore delegato è anche Fenucci. Certo. Quindi c'è un amministratore per gli italiani e uno per gli americani. Sì. E poi dopo c'è soprattutto c'è questo Italo Zanzi. No, che tutti quanti, oddio, che faranno? Io, nessuno lo sa cosa faccia, in realtà è simpatico, però c'è una faccia allegra. Manca solo lo sceicco, quello adesso entra anche quello. ma non solo lui, anche Baldini che andava a pranzo con lo sceicco, e non solo Baldini, e insomma comunque ne hanno combinate più di carne in Francia, ne certo. Tutti quanti, il logo, come sapete la sciarpetta venduta, adesso c'ero anch'io, no? Sì. In occasione della sconfitta di Coppa Italia, sì. Che sul sito vendevano la sciarpa per farlo ricordare. Diciamo che ci sono delle gaffe una dietro l'altra, però tra le gaffe poi ci sono anche gli errori. Ma perché? Perché non c'è un presidente. Perché il presidente sta a Boston e è Pallotta, americano, che non sa niente di calcio ovviamente. Ha messo un allenatore dei dirigenti sopra il direttore generale, e anche l'allenatore dei dirigenti non sa niente di calcio, viene dalla pallamano. Sì. È difficile, pensa, non lo so, uno di noi che va negli Stati Uniti e deve scegliere gli allenatori o i direttori sportivi per il baseball. Bravo, io, esatto, sinceramente, per il baseball. Sarei fuori di me. Tutti convocati Magazine. Dunque, come sapete, ve l'ho già detto, insomma, non mi piacciono i tramonti, neanche quelli sportivi. La mia vena così romantica e poetica forse si è essiccata da un po', però in settimana c'è stato non mi piacciono neanche tantissimo le ricorrenze, devo dire, i compleanni, gli eventi storici, eccetera eccetera. Mi piace ricordarli, ma tra me e me, magari rileggendo qualche pagina di un libro, riguardando filmati d'antan. C'è stato però in settimana un momento che, insomma, per motivi miei, da grande appassionato di basket, sono riuscito a rivivere completamente, autoprovocandomi, grazie a Franco Piantarino, anche i brividi, e ve lo confesso candidamente, perché non c'è niente da nascondere nell'ascoltare quella telecronaca di Aldo Giordani, nell'ascoltare, nel rivivere, nel ripensare quel bacio di Cagliari al pallone, che è per me un'icona dello sport italiano. Ebbene, vi confesso candidamente, mi è venuta la pelle d'oca. E allora cosa c'è di male? Eravamo indecisi se chiamare coach Sandro Gamba, CT della Nazionale di Basket Oro di Nantes, nel trentennale di questa festa, il giorno prima, cioè quello del suo compleanno numero 81, e va rivelato, non essendo Sandro Gamba una bella donna, ma essendo un pezzo di storia del nostro sport, un personaggio della storia del nostro sport, o chiamarlo invece il giorno dopo, in occasione del suo compleanno sportivo, quello dei 30 anni dell'Oro di Nantes. Abbiamo preferito questa seconda opzione perché io, conoscendolo un po', sono sicuro che Sandrone abbia voluto spegnere le candeline nel giorno dei 30 anni. Riviviamo questa pagina leggendaria del nostro sport. L'Italia è campione d'Europa con questo tiro libero di Bruno Monti. Andiamo a 104, abbiamo 10 lunghette di vantaggio. Dicevo prima che non siamo solo i campioni della difesa, ma facciamo anche più di 100 punti, viva Dio! 105-94, Corbalan, 5 secondi, lasciar tirare, segna Corbalan, tanto di cappello a lui, ma la partita è finita! L'Italia ha vinto 105-98 ed è campione d'Europa! Allora, eravamo indecisi se chiamarlo ieri per il suo compleanno anagrafico o oggi per il suo compleanno cestistico. Io sono convinto, conoscendolo un pochino, che festeggerà oggi Sandro Gamba. Ciao coach. Ciao a tutti. Allora, tanti auguri doppi. Grazie mille. Ieri per il compleanno anagrafico, che alla fine conta poco, oggi per quello sportivo 30 anni. Dal bacio di Cagliari al pallone. Stavo dicendo prima alla regia, loro sono giovani, ma io no, e mi viene la pelle d'oca a sentire tiro libero di Brunamonti dalla voce di Aldo Giordani, primo oro europeo per l'Italia. So che tu sei poco sentimentale, però sì, Però scommetto che oggi spegni le candeline. Sì, no, le ho già spente ieri, per la verità. Per la verità. Oggi mi hanno telefonato tutti per dirmi, ehi, 30 anni fa, e che non sembra. Chi ti ha chiamato? Mi ha chiamato un po' di giocatori miei, mi ha mandato i messaggi, mi ha mandato molte, ma anche un paio di lettere mi sono arrivate. Sì. Perché è stato un periodo molto di grande soddisfazione, perché io credo che quella fosse la squadra nazionale più forte di tutti i tempi, perché in tutti i ruoli noi eravamo coperti bene e da superstar anche. Ricordo bene, o da giocatori che in quella squadra riuscivano a diventare superstar, non so, mi viene in mente Cagliari, mi viene in mente Gilardi, 16 punti in finale. Sì. Quindi giocatori che in quella squadra riuscivano a diventare superstar. Perché alcuni giocatori diventano campioni con la squadra nazionale, perché magari giocano in squadre che per vincere uno scudetto devono aspettare anche loro 30 anni magari. E allora con la squadra nazionale riescono a esprimere le cose migliori che sono capaci di fare, si impegnano per rimanere titolare in squadra nazionale. Certo. E quella volta, non so, Gilardi per esempio era un esempio, a parte che aveva vinto uno scudetto e una Coppa dei Campioni con Roma, però lui era lo sprinter della squadra. Quando lui intercettava una palla non lo beccavano più, perché aveva le cosce come un centometrista. E quando andava, per noi era un contropiede sicuro, o canestro o fallo. Sì. Perciò, e poi la squadra, bisogna ricordare che la mia squadra, e la chiamo la mia squadra, aveva tre playmaker che sono stati tra i tre playmaker più forti di tutti i tempi: De Marzorati, Brunamonti e Cagliari. Avevo due guardie come, non so, Antonello Riva, e la miglior guardia che ha avuto l'Italia in tutti i tempi. Lo stesso Gilardi, poi c'erano i vari Merenghin, Vecchiato, Costa, Villalta, che allora era tra i migliori giocatori d'Europa. Certo. Perciò, senti, coach, amico. Certo, coach, ma senti una cosa, c'è una considerazione che io voglio girarti da Oro di Nanta. Uh-huh. Non mi sembra che oggi siamo messi poi così male come fregnano in molti, perché guardando anche questi playoff, giocatori come Datome, come Hackett, lasciamo stare quelli che giocano in America, mi sembra che stia, nonostante i tanti stranieri eccetera eccetera, io vedo giocatori di personalità. Sì, no, io è tempo che dico, per esempio Datome è un ottimo giocatore, però adesso mi deve far vedere come si gioca nei playoff, perché sai, i grandi giocatori giocano da grandi nelle partite che devono vincere o quantomeno sono decisive. E quest'anno Datome, io penso che abbia la scusante di infortuni. Hackett ha fatto una stagione buonissima, ha avuto qualche infortunio, però nei playoff, quando uno schizza fuori dal gruppo, vuol dire che ha la stoffa del campione. E poi ce ne sono altri che stanno crescendo: Polonara a Varese, sì, a Milano, Gentile, e anche Melli. Il problema è che bisogna istruirli bene. Sono passati e non ci sono più gli allenatori che allenavano e insegnavano. Adesso allenano. Sì, certo. Però la didattica è diventata molto sottile. Senti, un'ultima cosa, coach, prima di rinnovarti gli auguri, stasera Cantù contro Roma. Per un match ball, grande Varese ieri sera che ha battuto Siena e quindi si è allungata la vita. Secondo te, Siena-Cantù per la finale? È probabile, eh? Io avevo preventivato una finale tra Varese e, non so, no, Varese, per la verità, e Sassari, avevo detto. Sarebbe stato, però, meraviglioso. Come tutti quelli che fanno i pronostici, prendono delle curve un po' azzardate. E questa volta bisogna aspettare. Tra Cantù ha delle buone possibilità, perché è una delle sorprese del campionato, perché Cantù era data per dispersa perché dovevo cambiare allenatore, sì. Ha cambiato la sponsorizzazione, andavano male, hanno perso una serie di partite così che non si sa come, e invece questi hanno fatto la sorpresa che adesso vanno anche in finale. Sì, sì, merito che... del mio amico Bruno Arrigoni. Ah certo, Bruno Arrigoni che è andato a pescare lui in collaborazione con Trinchieri. Ogni anno pesca bene. Ma sai andare a pescare giocatori sul finale della stagione, giocatori decisivi sul finale della stagione, ovviamente sai di chi parlo, di Ragland, non è facilissimo, eh. Sì, sì, sì, no, non è facile, appunto, ma lui è bravo per quello. Io, per me è il miglior general manager che c'è in Italia. Sì. Ma nettamente. Sì. Leone d'oro del basket sì. Ormai negli ultimi anni a Bruno Arrigoni. Coach, io ti abbraccio. Sì. Io ti abbraccio insieme grazie a tutti mille. I nostri ascoltatori e ti rinnovo gli auguri per questo compleanno e quello di ieri. Grazie Sandro Gamba. Grazie, saluto tutti. Un abbraccio a tutti. Dunque, i brividi mi sono tornati, io ve lo confesso candidamente. Intanto ci prepariamo a vivere il finale dei playoff italiani e intanto per chi non vuole dormire mai come sottoscritto, ci sono i playoff NBA che hanno vissuto il primo atto. Ora non so per chi stiate facendo il tifo voi, io tra due squadre con cui ho poco cui spartire, perché non sono tifoso né di San Antonio né di Miami. Beh, in questa finale tra gli speroni di San Antonio, i vecchi monumenti Parker, Duncan, Ginobili e Miami che cerca la consacrazione con LeBron James, non posso fare a meno che tifare per quelli che sono all'ultimo atto di una storia luminosa, cioè quella di San Antonio. Ebbene, ho goduto abbastanza, ve lo confesso, nel vedere un incredibile canestro di Tony Parker che ha deciso la prima finale a Miami con San Antonio, che ha subito rubato il servizio a Miami. Ma da domani sera vedremo la prosecuzione di questo film. Intanto ci fermiamo e poi prendiamo l'aereo e voliamo in Israele tutti quanti. Tutti convocati Magazine. Dunque, vorrei chiudere questa puntata del Magazine volando in Israele, che come sapete è il teatro degli europei Under 21 di calcio. Non tanto per raccontarvi la cronaca o i risultati, quanto alcune storie che stanno emergendo da questo torneo e che a me divertono molto. A raccogliere per noi c'è una nuova amica, si chiama Maria Pia Valls Beltran. Ciao Maria Pia. Ciao a tutti dall'Israele. Com'è lì? È bellissimo, guarda, adesso sono fuori da un ristorante, sto finendo un pranzo bello lungo, bello largo, perché ci siamo dovuti fermare, però sto apprezzando le prelibatezze israeliane. Sì. E fa caldissimo, fa veramente caldo, per cui fa bello. Caldissimo, quindi tutto meraviglioso. Senti, l'altro giorno mi hai scritto e mi hai detto: ho una storia per te, un israeliano fantastico, questo merito davvero, un israeliano americano che nell'epoca dei social network è stato convocato via YouTube. Mi racconti questa storia? Esatto. Allora, lui si chiama Or Baruch. Io tra l'altro questa storia carina l'ho scoperta appunto qualche giorno fa, partecipando a una delle conferenze stampa della squadra israeliana, e ho conosciuto un po' di colleghi qui della zona, giornalisti che seguivano, e mi hanno detto: ma tu la conosci la storia di Or Baruch, che è praticamente l'ala sinistra dell'Under 21 di Guy Luzon? E gli ho detto: no, raccontatemi un po' cos'è questa storia, come è stato convocato. Praticamente lui è nato in Israele, ma si è trasferito con la famiglia da giovanissimo negli Stati Uniti. Quindi era talmente tanta la sua passione di venire convocato, lui gioca negli Stati Uniti attualmente ed è un bravo giocatore di calcio, e era talmente tanta la sua voglia di partecipare ad essere convocato con la nazionale Under 21, che ha mandato una mail all'attuale allenatore, Guy Luzon, israeliano, dicendogli: guarda, io sono appunto interessato a essere convocato, vorrei avere una chance da parte tua, se ti va guarda un po' di miei video su YouTube e questo è quanto. Per cui lui si è proposto, ha fatto un'autocandidatura tramite email e Guy Luzon effettivamente ha visto i video sapete ovviamente che di giocatori israeliani ce ne sono in giro per il mondo tantissimi, perché chiaramente sì, certo. Molti sono andati via da Tel Aviv, esatto, quindi è difficile anche, ieri sono stata in visita per esempio all'Academy della Federazione di Calcio Israeliana ed è difficile per loro, ci dicevano, riuscire a vedere tutti i giocatori che ci sono in giro, soprattutto i giocatori di giovanissima età. E certo. Quindi lui si è autoproposto e ha avuto chiaramente ragione. Basta YouTube, insomma, per conquistare una maglia della nazionale. Ma qual è la passione? Devi essere bravo, chiaramente. Senti, Maria Pia, ma qual è la passione israeliana per il calcio? Perché questa è una storia strana, curiosa, bella, però sappiamo che israeliani emigrati in tutto il mondo, non solo negli Stati Uniti, ce ne sono tanti. Il movimento calcistico israeliano è qualcosa di confine. Qual è la passione lì per il calcio? Loro cercano, ti racconto solo questa cosa, loro hanno 9 canali qui in Israele che fanno all sport news, quindi sì? 24 ore al giorno parlano solo di sport. Il calcio è seguitissimo, soprattutto il calcio nostro, quello europeo, quindi Premier League, Bundesliga e campionato italiano piacciono tantissimo, la gente li segue. Io ieri ho parlato con un po' di gente appunto fuori dalle partite che sto seguendo e gli israeliani in particolare vedono in questi europei una grandissima occasione per loro per farsi vedere al mondo come appassionati di calcio e non come quelle le uniche storie che spesso si sentono nelle cronache, no? Quindi le storie di guerra eccetera eccetera, perché a 20 km da dove sono io al momento c'è una guerra, sì, e certo. Quindi invece si parla di calcio, quindi è una situazione, diciamo siamo in una guerra di sapone in sì. cui il calcio viene visto come forte passione da parte dei tifosi e questa occasione che è stata data per gli europei under 21 sicuramente è unica per loro. Sì, ma certo, d'altra parte la passione, la religione, lasciami usare questa parola, degli israeliani per lo sport è qualcosa di noto, sappiamo bene cosa rappresenti, ad esempio nella pallacanestro che resta lo sport nazionale israeliano, il Maccabi Tel Aviv, che è una sorta di portabandiera dello sport israeliano. Adesso si prova col calcio e credo che questo europeo Under 21 possa essere comunque una spinta per l'intero sistema sportivo israeliano, sistema sportivo israeliano che è molto evoluto al di là di quanto si possa pensare. Guarda, io ho visitato chiaramente tutti e quattro gli stadi che sono teatro di questa competizione, sono degli stadi fantastici, veramente da starci bene dentro e ti viene proprio voglia di buttarti nel verde dell'erba, quindi strutture e di infrastrutture. Di rotolarti nell'erba, sì. Per quanto riguarda il basket, tra l'altro ho la fortuna di essere nello stesso albergo dove alloggia la squadra di Tel Aviv, di prima categoria di basket proprio, sì. E quindi ho fatto due chiacchiere anche con loro. Sì, Maccabi Tel Aviv, tu lo sai, è una religione per lo sport israeliano. Sì, senti, ma parlando invece della nazionale italiana, c'è stato il compleanno di Mangia, o sbaglio? Guarda, mi hanno fatto riderissimo i ragazzi perché chiaramente sono qui poco distante dal loro albergo e appunto giovedì è stato il compleanno di Davis Mangia e noi dalla spiaggia abbiamo visto i fuochi d'artificio, quindi sono andata a sentire i ragazzi, non abbiamo capito se erano imputabili al suo compleanno, in verità ci hanno detto che hanno semplicemente brindato durante la cena, chiaramente i ragazzi sono prontissimi per stasera, quindi si stanno chiaramente nei giorni in cui non giocano si riposano, non è che vanno in giro a far baldoria. Per chiudere, Maria Pia, mi racconti questa storia del cellulare smarrito sul taxi? Perché questa non l'ho capita. È incredibile. Allora, il giorno del primo allenamento che l'Italia ha fatto qui allo stadio in Tel Aviv, in centro, il Bloomfield, siamo recati con altri colleghi dal nostro albergo fino allo stadio in taxi. Allora, chiaramente sapete che da buona inviata sono in giro con computer, macchina fotografica, sì. telecamera, eccetera, eccetera. Tutto quindi, set. Scendo dal taxi, partecipo alla conferenza stampa, c'era Mangia, c'era il capitano, e poi niente, abbiamo visto i primi 15 minuti di allenamento. Ai primi 15 minuti avevo Arrigo Sacchi accanto a me, e stavo per intervistarlo quando dico ma il cellulare non lo vedo e l'avevo dimenticato in taxi. Brava, quindi, sai, essere in Israele e senza telefono eccetera poteva essere anche abbastanza complicato, quindi ero già sul disperato andante. torno dopo l'allenamento, torno in albergo, stavo cercando di contattare appunto la compagnia del taxi eccetera eccetera, appena scendo dall'albergo c'era il mio telefono che mi aspettava. Ma quindi l'autista del taxi è stato davvero gentilissimo, me l'ha riportato in albergo e quindi mi ha dato un'altra chiave di lettura su Tel Aviv e sugli israeliani. Cioè una chiave di lettura di un minimo di civiltà che dovrebbe esistere in tutto il mondo. Evidentemente questo non ci sorprende così, perché non siamo così abituati, mia cara. Esatto. Senti, ci troviamo in settimana per altre storie su questo europeo Under 21. Grazie Maria Pia Vals Beltrán. Io vi racconto le cose divertenti. E noi aspettiamo solo quelle, tu lo sai, tu lo sai, aspettiamo solo quelle. Grazie, ciao, un abbraccio. Tutti, ciao. Ciao, grazie dunque a Maria Pia Beltrán. Ci fermiamo, ci salutiamo qui perché poi ci ritroviamo lunedì con tutti convocati dalle 14 alle 15 per raccontarvi un sacco di altre storie, ma soprattutto per sentire voi. Io ringrazio Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti, regia, ciao a tutti.